Eccellente! La tua forza ha respinto i briganti. Il tuo quadrante è al sicuro. Onore a te! E ora resta solo un avventuriero. Il tuo quadrante è il più ampio. 180 gradi. Per vincere, dovrai superare una forza di 18. Sei pronto a sfidare il destino? Il dado è nelle tue mani. Posizionalo sullo schermo per tirarlo.